La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Venerdì 25 ottobre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E questo Caccia Fotone è del tutto straordinario perché è dedicato al Festival della Scienza di Genova, uno dei festival più importanti che ci siano nella nostra nazione. E per cominciare saremo in compagnia della dottoressa Manuela Arata dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia. Buongiorno dottoressa Arata. Buongiorno. Dottoressa Arata, all'inizio noi abbiamo queste 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione e quindi 100 parole le volevo chiedere se mi riesce a descrivere che cos'è un festival scientifico per coloro che non abbiano mai partecipato a un evento del genere. È scienza in tutti i modi, portata in tutti i posti in cui uno non immaginerebbe di trovarla e offerta perché la gente possa sperimentare. A noi tutti è rimasta la voglia del piccolo chimico. Al Festival di Genova si mettono le mani sopra, proprio il termine tecnico questo qua, in laboratori, mostre interattive, per far giocare le persone con la scienza. E tra l'altro, devo dire, si divertono i ragazzi, ma si divertono i genitori e i nonni esattamente nello stesso modo. Dottoressa Arata, con questo cameo ci lasciamo per un attimo, andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, torniamo in studio e continuiamo con la nostra trasmissione speciale. There's nothing I won't do. Hold you when you're blue. There's nothing that I wouldn't do. E bentornati cari radioascoltatori in questa puntata del tutto speciale di Caccia Fotone in cui stiamo parlando del Festival della Scienza di Genova. Intanto diamo due contatti per coloro che non abbiano mai visitato questo festival e il primo contatto è sicuramente un contatto web, internet, www.festivalscienza.it. E in questa prima tranche siamo in compagnia della dottoressa Manuela Arata dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia. Dottoressa Arata, come nasce questo Festival della Scienza? In particolar modo, se potesse fare una genesi di questo festival, che cosa avevate voglia di sperimentare in quel lontano 2003? Ma noi, questo festival nasce dall'esigenza della comunità scientifica. Io allora ero direttore dell'Istituto di Fisica della Materia. Si registrava un calo delle iscrizioni ai corsi di laurea scientifici molto grave e quindi avevamo bisogno di sensibilizzare i giovani. Ma non bastava, bisognava sensibilizzare anche i genitori, le famiglie. E quindi già dal 92 noi avevamo cominciato a fare una mostra che si chiamava Impara Giocando e che ha riscosso un successo straordinario. Da lì è nata l'idea del festival, che poi copre più obiettivi. Appunto, il primo è quello dell'orientamento dei giovani, il secondo però è la sensibilità sociale della società nei confronti della scienza, non ultimo anche una sensibilità dei governi. Gli enti di ricerca, le università hanno finanziamenti pubblici, quindi sono pagati con le tasse degli italiani ed è giusto che rendicontino e restituiscano anche a livello sociale quello che loro fanno. Quindi io penso che nel successo del nostro festival ci stiano sostanzialmente queste motivazioni. Per questo noi abbiamo deciso di strutturarlo in maniera molto ampia e dare la possibilità a tutte le persone di diverse culture, di diverse età, di usufruirne. La cosa ha funzionato perché dai laboratori, il top 10 del nostro festival sono i laboratori interattivi, ci vanno a giocare tutti, da quello della polizia scientifica a quello del DNA. Però poi abbiamo le mostre e anche delle mostre belle, arte e scienza, e poi molte conferenze e occasioni per conoscere i ricercatori, perché un altro problema che abbiamo è quello che il ricercatore è visto come un soggetto terzo rispetto alla società, e invece è molto bello poi conoscere queste persone che sono sostanzialmente molto creative. Qui abbiamo fatto un lavoro specifico, non siamo andati a cercare i grandi divulgatori, anche se da noi vengono personaggi conosciutissimi, però siamo andati a cercare gli scienziati e abbiamo chiesto loro di cercare di essere comprensibili. La cosa ha funzionato molto bene e vediamo che ogni volta alle conferenze si instaura proprio un rapporto personale. Loro si stupiscono perché il pubblico fa domande intelligenti e il pubblico ha voglia di intelligenza. Dottoressa Rada, come mai la tecnica di giocare, manipolare, toccare, guardare, una tecnica che lascia più le cose nella memoria, mentre la tecnica di sedersi passivamente e ascoltare magari una bellissima conferenza sulla matematica o sulla teoria delle stringhe è qualcosa che non lascia le cose in memoria? Perché in teoria la conferenza è il passato, invece l'animazione è il futuro? Beh, io non sono una psicologa, ma credo che sia una legge di natura. Quando le cose si fanno si memorizzano automaticamente molto di più, si interiorizzano di più. E quindi, e poi appunto la scienza è sperimentazione, la scienza è da Galileo in poi, è chiaro che è l'esperienza quella che colpisce di più. E quindi penso che sia semplicemente insito nella natura umana. In più il nostro sistema educativo fa fatica per motivi economici a dotarsi di strutture sperimentali, le scuole non hanno quasi più i laboratori e quindi offrire la possibilità di fare sperimentazione soprattutto per il sistema educativo è una cosa che viene apprezzata moltissimo. Grande spazio in questo festival è dato anche agli animatori, non sto parlando solamente dei 1500 animatori e passa che accolgono i ragazzi e li fanno giocare con gli strumenti interattivi proprio del festival, ma sto parlando anche dei tanti animatori che sono coloro che progettano in realtà le mostre interattive. Come mai avete deciso di attivare questa modalità interattiva in cui sono gli animatori stessi a strutturare i laboratori? Ma questa è la tradizione appunto della mostra Impara Giocando e noi abbiamo verificato che oltretutto un argomento difficile spiegato da una persona giovane diventa accattivante sia per i piccoli che vedono il modello che per i più anziani, perché se io che ho 50 anni devo ammettere con un mio coetaneo che non ho capito una cosa o che non la so, mi vergogno molto di più che non se posso dare una pacca sulla spalla e dire ah voi giovani ne sapete una più del diavolo. Abbiamo coinvolto i giovani anche per allevarli, i nostri ricercatori, diciamo la mia generazione, non è abituata a fare la divulgazione. Noi pensiamo che con questa esperienza, e ne stiamo verificando la validità, possiamo allevare una nuova generazione di ricercatori che ne ha nel DNA l'idea di dover trasferire al pubblico la sua conoscenza. Questi ragazzi sono fantastici, ogni anno se ne candidano 1500 ormai da tutta l'Italia, abbiamo anche degli stranieri. Questi ragazzi fanno un'esperienza bellissima e poi diventano ovviamente dei progettisti di laboratori, perché gli viene in mente l'anno prossimo propongo una cosa così piuttosto che un'altra. Di fatto noi abbiamo una squadra, ormai diciamo quelli più grandi, che si sono trasformati in progettisti e se ne inventano una più del diavolo, devo dire. Dottoressa Rada, che cosa ricorda di più delle passate edizioni del festival dal punto di vista della percezione? Io ricordo per esempio qualche anno fa che c'era il laboratorio della birra creato attraverso il vino moscato, oppure l'anno scorso invece c'era un laboratorio bellissimo che si chiamava Lo Scienziato Puzzle, in cui i bambini erano invitati a disegnare la loro immagine di scienziato. Lei, dottoressa Rada, che cosa ricorda di più con affetto? Ma io sono impazzita quando abbiamo fatto il laboratorio della polizia scientifica, e l'ho citato prima perché mi ha colpita, perché siamo riusciti a coinvolgere la polizia scientifica, c'era la gazzella posteggiata fuori dal laboratorio, arrivava il pubblico sulla scena del crimine e i poliziotti dicevano fermi tutti, non inquinate le prove, gli mettevano la tuta, gli facevano raccogliere tutti i reperti e poi li analizzavano lì, abbiamo avuto, ma non le code, la gente che si picchiava. E un altro episodio fantastico che ricordo, questo è recente, di 2 anni fa, è venuto l'uomo più felice del mondo, che è questo francese che si è fatto monaco buddista e fa l'assistente al Dalai Lama, a fare una conferenza sul fatto se la coscienza era materiale o immateriale. C'era talmente tanta gente che i conferenzieri si sono alzati e sono andati nella sala accanto a prendere le seggiole per far sedere il pubblico, e questo è stato un atto di dolcezza nei confronti del pubblico che dà l'idea dell'atmosfera che si crea in questa manifestazione. Io ne sono veramente molto felice. Dottoressa, un'ultima domanda per questa prima parte. Il Festival della Scienza nasce per comunicare la scienza e nasce nel momento in cui, come lei ha appena detto, c'erano pochi iscritti alle facoltà scientifiche. Da quello che sapete voi, c'è stata un'impennata di iscritti alle facoltà scientifiche a causa del Festival della Scienza, oppure c'è stato qualcuno che è ritornato al festival dicendo ok, ho visto il laboratorio del festival e ho deciso di iscrivermi, che ne so, a matematica o fisica? Sì, è successa una cosa bellissima all'inizio, di un ragazzo che è venuto al festival, era un iscritto a economia e l'anno dopo è passato a matematica. Quest'anno abbiamo i primi dati finalmente di risultato pratico e il direttore regionale dell'istruzione ci ha comunicato che le iscrizioni ai corsi di laurea scientifici a Genova sono aumentate del 43%, con un picco del 100% a matematica, e ovviamente non è merito nostro, c'è un grosso progetto lauree scientifiche che è stato portato avanti, però sicuramente per esempio questa svolta sulla matematica è anche legata alla palestra della matematica, Mate Fitness, che è un'iniziativa permanente nata dal festival, e ogni anno il polo della matematica fa 20-25 mila visitatori, quindi siamo riusciti a porgere la matematica in maniera sdrammatizzante, e questo ha effettivamente degli effetti. Dottoressa Rada, la ringrazio per l'intervento. Adesso andiamo con un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi continueremo a parlare del Festival della Scienza di Genova in compagnia del dottor Vittorio Bo. Io saluto tutti, ma do a tutti appuntamento. Siamo a Genova fino al 1° di novembre, quindi venitevi a fare un weekend con la scienza, che è bello. dopo aver ascoltato questo piccolo pezzo musicale, siamo di nuovo ritornati in studio per parlare del Festival della Scienza di Genova e saremo questa volta, in questa seconda tranche, in compagnia del dottor Vittorio Bo. Buongiorno dottor Bo. Buongiorno. Dottor Bo, con la dottoressa Arata abbiamo parlato un pochino degli eventi, delle manifestazioni, degli eventi in zona, quindi di tutte quelle iniziative dedicate ai ragazzi, ma con lei invece volevo parlare un pochino delle conferenze, quindi quali saranno gli ospiti di spicco presenti all'interno del Festival della Scienza di Genova? Ma come voi sapete, come sanno anche molto bene gli ospiti, il Festival si articola in una serie piuttosto varia di eventi che sono conferenze, sono mostre scientifiche ed arte, sono anche delle grandi presenze di imprese che vengono a raccontare per esempio tutto l'universo futuro della tecnologia medica attraverso l'informatica come Telecom, piuttosto l'energia come Enel. Le conferenze sono uno dei pezzi forti del Festival da sempre. Sono più di 120, ci sono ospiti nazionali e internazionali, noti e non noti, perché una delle particolarità del Festival è quello di avere un forte ricambio nella presenza dei nostri ospiti. Quest'anno, come forse già si sa, il Festival ripete un po' la formula dell'anno scorso, dividendo il tema dell'anno, che quest'anno è il futuro, in cinque filoni che accompagnano un po' sia la definizione da parte nostra della definizione di questo tema, cioè il futuro, sia aiutano i visitatori, quindi il futuro della vita, il futuro dell'universo, il futuro delle idee, così in modo tale da poter, come dire, in qualche modo proiettare un proprio percorso, costruirsi una propria giornata o più di una giornata se, come speriamo, i nostri ospiti saranno presenti magari un lungo weekend se vengono da fuori, o genovesi che lo frequentano con una certa assiduità durante tutti gli 11 giorni. Grandi nomi, ne faccio alcuni, per esempio i due premi Nobel, Luc Montagnier, che inaugura proprio il Festival, grande premio Nobel per la medicina 2008, grande ricercatore sull'HIV e sui virus, e poi Dario Fo a chiudere il Festival con una lettura di uno straordinario Galileo in dialetto padovano. In mezzo tanti ospiti dalle neuroscienze come Stanislav Behem, un grande neuroscienziato che insegna al Collège de France, che verrà a parlare dei neuroni della lettura, o Michael Kazzaniga sull'evoluzione del cervello umano. Un grande futurologo come Ian Pearson, che ha lavorato nei laboratori della British Telecom per tanti anni, un grandissimo ambientalista operativo come Søren Hermansen, che ha creato in Danimarca il primo villaggio completamente ecologico, Richard Miller, un grande fisico della Stanford University, che ci racconta come scienza e politica devono andare a braccetto, devono essere assolutamente complementari e compagni di strada, insomma. Tanti anche italiani, da Luca Cavalli Sforza a Edoardo Boncinelli a Pier Giorgio Di Freddi a Enrico Bellone, ma tanti e tantissimi altri che ovviamente sarebbe un po' troppo lungo in questa occasione elencare. Dottor Bo, come mai avete voluto dedicare un intero festival al tema del futuro? Ma dunque, il tema del futuro noi l'avevamo scelto prima della grande crisi finanziaria. Di fronte al futuro ci si pone in termini di aspettative, anche di paure, no? Pensiamo anche alla paura più che legittima e naturale di ciò che ci attende dopo o durante ancora un momento così trambustato, ma il futuro è anche speranza, è anche la ricerca di una strada, di un percorso con dei nuovi mezzi, con delle nuove domande che ci possano in qualche modo dare degli stimoli, ripresentarci anche delle occasioni per vedere la realtà in cui viviamo con occhi diversi e soprattutto accompagnati da tanti stimoli e personaggi che ci possono aiutare. Senta professor Bo, se potesse consigliare un solo evento a un visitatore esterno che vuole visitare il festival, quale evento consiglierebbe? È difficile, come si dice quando si parla dei figli, no? È molto difficile, ma io credo che l'evento sia il festival in sé, cioè è l'atmosfera che si vive. Si potrebbe anche non andare a nessun evento, ma stare in tutti gli eventi, nel senso che l'evento è la città stessa. Noi abbiamo un festival che è proprio sviluppato su tutta la città, sono più di 80 le location che noi occupiamo, invadiamo Genova. A Genova piace essere invasa, per cui proprio dirne uno ne direi tutti, ma dico tutti, l'evento forse in questo caso davvero, senza essere campanilisti, è Genova stessa che si trasforma in una grande città della scienza, del piacere di conoscere e di conoscersi attraverso la scienza. Non si vuole proprio sbottonare su uno o due eventi, no, vero? No, non è questione. Beh, uno o due già è una cosa diversa, ma per esempio sicuramente se posso parlare di un grande scienziato che è già stato al festival, quindi non faccio torto ai nuovi, Jean-Pierre Luminet, domenica prossima parlerà dei confini dell'universo, è un grande astronomo, astrofisico, ed è anche un grandissimo oratore, quindi se posso consigliare già una prova provata, quello è sicuramente un evento che sarà di grande successo, ma tanti, tanti saranno gli eventi interessanti, quindi ma non è per questione di non tornarsi, di far torto a qualcuno, è proprio la questione legata al fatto che la sorpresa, la curiosità, è un po' l'avventura del festival, è questo, cioè scoprire anche delle cose che non si immaginano, che noi stessi non immaginiamo così interessanti e così belle come ci proponiamo, ci aspettiamo. Senta, dottor Bo, qual è l'evento che avete più faticato a organizzare quest'anno? Beh, quest'anno diciamo che è stato un anno più difficile perché le incertezze economiche, ma non solo queste, ci hanno fatto rivedere un po' le nostre aspirazioni, anche se sono sempre alte, un festival con quasi 340 eventi, quindi molto molto ricco, ma certamente quelli che hanno più complessità organizzativa, adesso stiamo ancora terminando la definizione del trasferimento delle tavole vibranti del INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e anche delle tavole di simulazione dei terremoti che sono state all'Aquila, insomma, sono difficoltà determinate dai tempi di realizzazione. Certamente poi ci sono anche le difficoltà nel raggiungere determinati personaggi che si possono considerare ideali per il festival, e sicuramente diciamo che il successo di avere conquistato l'approvazione da parte di Montagnier molto positivo, non è stato facile visto la sua agenda, ma diciamo che il festival ha ormai una consolidata reputazione, è conosciuto a livello internazionale, e quindi non dobbiamo più spiegare a molti moltissimi dei nostri interlocutori, dei nostri scienziati, che cos'è il festival. Dottor Bossi, conclude così lo speciale sul Festival della Scienza di Genova. Io do appuntamento ai nostri radioascoltatori domani per il consueto cacciafotone del sabato, e faccio a tutti come al solito l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie professor Bo. Arrivederci, grazie ancora.